Agora in onda. Agora in onda. Rubrica di informazione giuridica e attualità a cura dell'avvocato Marco Mampieri. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Anch'io do il benvenuto al nostro ospite, il sindaco di Castel San Pietro, che ha raccolto l'invito a partecipare alla trasmissione Agora in onda in un momento della nostra vita istituzionale in cui il Presidente della Repubblica sta effettuando le consultazioni la formazione del governo. Siamo al secondo giro, la giostra non sappiamo se andrà avanti, ma oggi parleremo dei comuni e ne parleremo come abbiamo fatto la scorsa settimana con il presidente, il segretario dell'ANCI, del segretario dell'ANCI Lazio Enrico Diacetti. Oggi lo faremo invece con un sindaco di un piccolo comune, perché nella catena istituzionale, abbiamo detto la settimana scorsa, i comuni rappresentano il punto di frontiera tra la parte centrale dello Stato, della Repubblica e il punto di prossimità con i cittadini. Buongiorno sindaco, benvenuto ad Agora in onda. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito che ho raccolto con grande piacere. Beh, visto che parlavo di girando la politica, vedi che io ti ho scelto anche il brano adatto, no? Mondo politico, Francesco De Gregori. Chissà, no, perché Mattarella ha detto bisogna fare in fretta. Che c'è anche il rischio di una guerra adesso. Meno male, insomma, meno male che in fretta. Appunto, meno male che hanno fretta, perché insomma io tutta questa fretta non la vedo. Però noi oggi parliamo principalmente dei comuni e come fattore di rilancio del territorio, dei comuni che appunto in questo caso rappresentati dal sindaco di Castel San Pietro Romano, Giampaolo Nardi, che sono sotto i 5.000 abitanti, no? Esatto Stefano, proprio in la comparazione che abbiamo fatto tra il ruolo, il compito che sta svolgendo il Presidente della Repubblica e poi chi materialmente è sul territorio, e soprattutto vedere, diamo alcuni numeri, no? Nei circa 8.000 comuni in Italia, 5.536 sono sotto i 5.000 abitanti, il che significa che rappresentano il 69% del totale dei comuni d'Italia. Nel Lazio questa percentuale analoga, parliamo del 66%, perché sui 378 comuni del Lazio 252 sono sotto i 5.000 abitanti, e questa mattina abbiamo voluto un rappresentante di questi piccoli comuni, perché Castel San Pietro è un comune prenestino che ha ovviamente meno di 5.000 abitanti, poi lo chiederemo al sindaco, però volevamo focalizzare l'attenzione della puntata odierna sui comuni. La settimana scorsa abbiamo parlato del ruolo istituzionale, oggi parliamo come fattore di rilancio del territorio, proprio perché i comuni sono il punto nevralgico della rete neurale che poi caratterizza la Repubblica Italiana, e per questo abbiamo bisogno di amministratori competenti e capaci, oltre che ovviamente onesti, e sui quali puntare proprio per lo sviluppo del territorio, perché ricordiamo, il sindaco non è soltanto colui che deve riparare le buche o deve fare l'amministratore di condominio, è colui il quale ha il compito di decidere e di interpretare nella rappresentanza della comunità quelle che sono le politiche di indirizzo e di sviluppo del territorio. Oggi ho il piacere di farlo con Giampaolo, che conosco personalmente, ma soprattutto perché lo seguo e vedo come si distingue insomma nel panorama politico locale, perché da anni porta avanti un'attività intensa di sviluppo e di promozione del proprio territorio, e lo fa con orgoglio e con passione, che contraddistingue proprio la capacità di tanti amministratori italiani, spesso giovani, che si impegnano alla guida delle proprie comunità. E per questo ovviamente ho voluto che questa mattina in trasmissione ci fosse la sua testimonianza rispetto al suo ruolo, al suo impegno quotidiano come amministratore, ma soprattutto come protagonista nello sviluppo di rilancio del proprio territorio. Giampaolo, quindi secondo te, no, ti chiedo in questa prima fase, in questa apertura, quale ruolo i piccoli comuni possono avere nello sviluppo e nel rilancio e nella conservazione del territorio? Io innanzitutto vi ringrazio dei numerosi complimenti che avete espresso sulla mia persona e sul mio operato, vi ringrazio per questo. Ecco, come hai detto te Marco, i comuni oggi rappresentano un tassello fondamentale per la vita istituzionale del paese, ma anche un punto di riferimento importante per i cittadini. Credo sia attuale la difficoltà che il nostro territorio ha riguardo la città metropolitana di Roma Capitale. eravamo tutti abituati alla provincia di Roma, oggi i nostri territori sono del tutto abbandonati perché la città metropolitana di Roma Capitale è una scatola vuota e quindi non c'è più il collegamento con un ente intermedio, quindi i comuni debbono rivolgersi e possono rivolgersi soltanto alla Regione Lazio. E questo ovviamente è penalizzante perché la città metropolitana di Roma Capitale è comunque rimasta in piedi, ha comunque delle funzioni che dovrebbe svolgere e dovrebbe garantire dei servizi, ma è ovvio che se non c'è un'amministrazione che riesce ad approvare il bilancio, se non ci sono dei referenti che riescono ad amministrare la città metropolitana, se ormai da più di qualche mese non abbiamo addirittura il vice sindaco metropolitano, quindi è impensabile che il sindaco di Roma, che giustamente ha difficoltà ad amministrare Roma, come può pensare di amministrare anche Castel San Pietro, Palestrina ed altri territori, insomma, esterni a Roma Capitale, il ruolo dei comuni diventa ancora più importante. Oggi fare il sindaco credo che è veramente difficile, lo vivo tutti i giorni, è difficile perché fare il sindaco significa andare a dormire la sera facendo la conta delle cose che non si è riusciti a fare e svegliarsi la mattina ricominciando da capo, e tu penso che ne sai qualcosa perché insieme abbiamo condiviso anche diciamo un bel percorso e una bella esperienza. Sicuramente tu denunci, ecco, nella tua riflessione poi ritorneremo sul ruolo di rilancio che possono avere, però tu denunci una situazione abbastanza difficile da un punto di vista istituzionale perché c'è un vuoto politico più che istituzionale, perché in questo frangente a livello di città metropolitana c'è un vuoto piuttosto politico anziché istituzionale, perché la città metropolitana, o meglio abbiamo detto, è rimasta in piedi, è una delle articolazioni della Repubblica, l'abbiamo detto dall'articolo 114 della Costituzione, però manca nel suo funzionamento perché manca una spinta propulsiva politica, oltre che economica ovviamente, che sappia individuare le istanze e i bisogni dell'area vasta. Assolutamente sì, diciamo che c'è anche un po' un vuoto istituzionale, nel senso che l'abbiamo contestato fin da subito anche nelle prime conferenze dei sindaci nella città metropolitana. È stata tolta l'elezione di primo livello, quindi i cittadini non scelgono più i rappresentanti in città metropolitana, ma c'è un'elezione di secondo livello. Questo purtroppo ha portato ad un distaccamento grande della politica con i cittadini, ma come dici tu c'è anche un problema politico vero. Porto un esempio e poi torniamo ovviamente al tema che mi avete sottoposto. La scorsa settimana, come sapete, a Palestrina ci sono delle difficoltà, come a Castel San Pietro e come in altri comuni, per quanto riguarda la sicurezza, la viabilità, penso alla strada provinciale 58A. Insieme al sindaco di Palestrina e al sindaco di Capranica Prenestina ci siamo recati in città metropolitana per la commissione viabilità. In quella commissione viabilità, per la seconda volta consecutiva, non si è presentato alcun rappresentante della maggioranza dell'amministrazione della città metropolitana di Roma Capitale, quindi ci siamo trovati a confrontarci solo ed esclusivamente con due consiglieri presenti dell'opposizione, c'era il presidente Borrelli, e poi abbiamo dovuto parlare con i dirigenti e con i tecnici, ma è ovvio che il dirigente ed il tecnico, se non è messo in condizione di lavorare dalla politica, trova qualche difficoltà. Quindi diciamo, ecco, fatta la riflessione sulla città metropolitana di Roma Capitale, il ruolo dei comuni è fondamentale, sono diciamo l'ultimo baluardo, l'avamposto delle istituzioni, quello che si dice spesso. Noi, nella mia esperienza a Castel San Pietro, stiamo cercando di lavorare sulla valorizzazione del territorio, sul rilancio del territorio, perché vogliamo sfruttare la presenza di Roma Capitale, non vogliamo subire ed essere oscurati dalla capitale, e quindi diciamo abbiamo intrapreso delle azioni importanti di valorizzazione che ci stanno dando dopo 4 anni i primi risultati. Questo quello passato è un po' l'anno dei riconoscimenti per il nostro comune, siamo riusciti ad essere inseriti tra le prime 100 mete d'Italia e poi di tanti e tra i borghi più belli d'Italia. Poi di questo ne parleremo, proprio a testimonianza dell'impegno che la tua amministrazione sta mettendo per rilanciare il territorio e valorizzare quelle che sono le peculiarità. Qualche tempo fa era stato proposto, diciamo, sempre una soppressione dei piccoli comuni. Questo tema oggi è meno forte rispetto a qualche anno fa, in cui per logiche economiche il governo nazionale aveva proposto l'accorpamento, la soppressione di servizi di piccoli comuni in un'ottica di risparmio economico. Ti chiedo, Giampaolo, di parlarci invece della legge sui piccoli comuni che anche la Regione Lazio ha portato avanti l'anno scorso, quantomeno per cercare di fare in modo che la voce dei piccoli comuni possa essere una voce ancora importante nel panorama istituzionale italiano e soprattutto per tutte le migliaia di persone che vivono nei piccoli comuni. Sì, come hai detto te, fino a qualche anno fa abbiamo avuto la paura dell'accorpamento, della soppressione forzosa, perché in Italia molto spesso ci piace fare degli spot, perché è più facile scrivere e dire sul giornale che abbiamo tagliato 1000 poltrone e poi vai a vedere quelle 1000 poltrone sono quelle dei consiglieri comunali dei comuni sotto i 5000 abitanti che prendono 9 euro a gettone di presenza a seduta del consiglio comunale e in un anno si fanno circa 10 sedute di consiglio, quindi parliamo di tagli spot. Grazie a Dio, dopo 15 anni di discussione finalmente sia la Camera che il Senato hanno licenziato la legge sui piccoli comuni. Io ho avuto il piacere di ospitare a Castello l'onorevole Realacci, che è il promotore della legge sui piccoli comuni, e l'ha presentata proprio nella mia aula consigliare lo scorso 3 dicembre, insieme anche a Cristiana Venali e Rodolfo Lena, che sono due consiglieri regionali. Cristiana Venali è la prima firmataria della proposta di legge della Regione Lazio sui piccoli comuni, che ancora non è legge. Oggi abbiamo come legge quindi la legge nazionale. Quindi scusami, correggo, non era la Regione Lazio, ma non è la Regione Lazio, sì, è diciamo il governo centrale che ha licenziato finalmente questa legge. C'è uno stanziamento di 100 milioni di euro per 5 anni, quindi uno stanziamento tra virgolette simbolico, ma non è quello l'importante, non sono i soldi la cosa importante, ci vogliono anche quelli, per carità, soprattutto in questo momento, ma la cosa fondamentale è il cambio di tendenza, ossia l'aver riconosciuto un ruolo importante per i piccoli comuni, che prima dovevano avere la paura di essere cancellati da un momento all'altro. Fortunatamente il governo, il Parlamento è riuscito a capire che togliendo i piccoli comuni significava cancellare, come hai detto tu prima nelle statistiche, il 70% dell'Italia, e quindi questo avrebbe portato diciamo alla distruzione dell'Italia e alla perdita di tanti territori, perché poi il comune è il presidio di un territorio. Quindi la legge sui piccoli comuni va proprio in questo senso: presidiare il territorio, valorizzare il territorio. Uno dei primi successi importanti grazie a questa legge è proprio quello che riguarda gli uffici postali. Scongiurata la chiusura di tanti uffici postali nei piccoli comuni, e questo è un problema annoso, perché in tanti piccoli comuni diciamo c'è stata questa paura, tanti piccoli comuni hanno dovuto affrontare anche diciamo un turnover negli orari, e quindi questo è il primo diciamo segnale arrivato da questa legge. Ma è ovvio che è soltanto l'inizio, non basta diciamo l'approvazione del Parlamento, adesso c'è bisogno che il governo dia seguito a diciamo la legge approvata, ma soprattutto c'è bisogno che venga riconosciuto un ruolo importante ai comuni, perché non è possibile che negli ultimi 10 anni sono stati tagliati ben 41 miliardi di trasferimenti dal fondo di solidarietà ai comuni. Questo diciamo diventa una situazione insostenibile, perché è difficile garantire più servizi, perché oggi ovviamente e giustamente i nostri cittadini sono più rigorosi, anche perché pagano tante tasse, ma è difficile garantire gli stessi servizi di prima o forse di più con 41 miliardi in meno di trasferimenti del fondo di solidarietà. Quindi questa legge, speriamo che al di là sicuramente dei buoni propositi che ha all'interno, perché c'è la valorizzazione quindi dei centri storici, la valorizzazione dei borghi, la difesa diciamo della natura e quindi del territorio e tante altre insomma azioni sicuramente importanti ed ideali, c'è bisogno dell'aspetto concreto, ossia che qualcuno si occupi veramente effettivamente dei nostri comuni. Speriamo anche che l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, in questo senso riesca a far qualcosa, anche perché oggi le regole burocratiche inserite per la gestione dei comuni sono sempre più complesse. Penso alla nuova contabilità che irrigidisce sempre di più i comuni, perché il mio comune è piccolo, come hai detto te, però ci troviamo anche noi a dover rispettare tanti patti, quasi una sorta di patto di stabilità, e diventa difficile amministrare in questo modo. Ti fermo un minuto, hai descritto, e questo è importante perché dalla tua voce anche i radioascoltatori possono capire quelle che sono le difficoltà che quotidianamente ci sono, ma soprattutto nell'interesse dei cittadini, perché i servizi di cui parlavi tu sono nell'interesse proprio dei cittadini che abitano queste piccole comunità, o comunque comuni in generale, e che hanno subito dei drastici tagli in questi anni. Ma questo serve anche per portare all'attenzione dei radioascoltatori questo problema che si vive quotidianamente, e che non è il vero che il taglio della politica possa essere addebitato soltanto, come dicevi tu all'inizio del tuo intervento, al taglio delle istituzioni presenti sul territorio, ma andrebbero cercati magari gli sprechi da altre parti. Quindi la politica deve essere in qualche modo valorizzata, soprattutto quando è a contatto diretto con i cittadini. Ti fermo proprio perché stiamo parlando appunto in positivo del ruolo dei comuni, perché è importante che proprio a fronte dei tagli che ci sono stati, le attività spesso di tanti amministratori in prima linea è quello che riesce a portare avanti un discorso forte di rilancio del territorio, perché il rischio che paventavamo, cioè che con le leggi che tagliavano gli enti, l'accorpamento, ci fosse anche una diminuzione, un rischio idrogeologico per il territorio, no? Oltre che di presenza fisica, perché se tagli i servizi ovviamente le persone sono costrette ad andare via. Invece quale strategia di rilancio può essere il territorio? Quanta fatica e quale soddisfazione è stato per esempio per il tuo comune ottenere prima il riconoscimento del presidio Slow Food per il Giglietto e poi la scorsa settimana entrare a far parte dei borghi più belli d'Italia? È possibile uno sviluppo del territorio attraverso il turismo lento, attraverso le valorizzazioni e le bellezze anche dei piccoli territori? Allora, sì, sicuramente è possibile. Torno un attimo al discorso di prima, Marco, perché ho omesso di dire che proprio l'obiettivo della legge presentata dall'onorevole Realacci è quella di garantire e contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni, quindi ho fatto un piccolo passo indietro. Per quanto riguarda il turismo lento, i riconoscimenti del mio comune, come ho detto prima, l'anno scorso è stato un po' l'anno dei premi, l'anno dei riconoscimenti, ma ogni traguardo è frutto di un percorso, quindi a novembre abbiamo avuto l'onore di essere riconosciuti tra le 100 mete d'Italia, quindi tra le 100 amministrazioni d'Italia premiate come eccellenze d'Italia in una cerimonia al Senato della Repubblica. Il 14 novembre invece, dopo un percorso lungo 2 anni, perché la candidatura di Castel San Pietro tra i borghi più belli d'Italia inizia nel luglio 2015, il comitato scientifico del club ha deliberato l'entrata di Castel San Pietro in questo circuito così importante, del quale fanno parte 250 comuni in Italia, 18 nel Lazio, 4 nella città metropolitana di Roma Capitale. Proprio sabato scorso a Norcia ho partecipato per la prima volta all'Assemblea Nazionale dei Borghi più belli d'Italia e si è parlato proprio del ruolo dei borghi per quanto riguarda il turismo. Il direttore del MIBACT ha dato dei dati e i dati sono oggettivi e quindi rappresentano in qualche modo la verità. Ci ha detto che l'11% del PIL della nazione arriva dal turismo. Negli ultimi anni il 4% di quell'11% deriva dal turismo dei borghi, quindi è ovvio che diventa importante e fondamentale il ruolo dei piccoli centri. Oggi le persone cercano un turismo di prossimità, perché nei borghi si vive bene, perché è la particolarità dell'Italia, e noi su questo dobbiamo lavorare. Proprio il club dei borghi più belli d'Italia ha questo come obiettivo, ossia quello di collegare le grandi realtà, e quindi nel nostro caso Roma, le grandi città, con i borghi, il cosiddetto turismo di prossimità. In questi anni poi sono nati anche degli importanti degli importanti cammini naturali, perché il turismo lento è un qualcosa che funziona oggi sempre di più, perché i nostri territori sono pieni di monumenti naturali, la forza del territorio è la natura. Per quanto riguarda invece il riconoscimento del presidio Slow Food, quella è un'altra fantastica storia iniziata nel 2014 per me, è una delle prime cose che ho avuto l'onore di fare da sindaco, anche grazie ovviamente a chi è venuto prima di me, che ci ha creduto e lavorato da subito, e quindi penso al nostro forno e a tutte le attività artigianali anche di Palestrina, al GAL dei Castelli Romani e diciamo anche al mio predecessore a Castel San Pietro, che è Dario Fiasco, che colgo l'occasione per salutare se è in onda. Quindi in un'azione di squadra, in un'azione di continuità amministrativa, di propensione verso il futuro, cioè attenzione costante verso il territorio, ma anche e soprattutto per le possibilità del futuro, è possibile realizzare e ottenere dei successi graduali, piccoli, che possono però essere la base di un rilancio e di uno sviluppo. Se, come dicevi tu, il direttore del MIBACT ha affermato che il 4% di quell'11% complessivo è legato al PIL scaturito dai piccoli comuni in ambito turistico, significa che la prospettiva di crescita e di rilancio del territorio passa proprio attraverso la conservazione e la valorizzazione dei piccoli borghi, che ovviamente non può prescindere dalla manutenzione di quello che è la quotidianità, ma è altrettanto vero che questo può attrarre e essere importante per trovare degli investimenti che sappiano incrementare la produttività locale e quindi dare la possibilità a tante persone che vivono in questi borghi di poter rimanere all'interno di queste meravigliose città piccoline, perché dove però la qualità della vita è sicuramente è una delle fonti più apprezzabili di benessere del nostro territorio. Sì, sicuramente c'è bisogno di uno sguardo di lungo periodo, ma soprattutto di uno sguardo ampio dei borghi verso l'esterno. È necessario oggi lavorare in rete, perché come dice un detto, da soli si va più veloce, ma insieme si arriva più lontano, questo è sicuro. E quindi anche l'importanza di far parte del club dei borghi più belli d'Italia, così come quella di appartenere ad un GAL, non è tanto un traguardo o una targa che il sindaco poggia sulla scrivania, è la possibilità di lavorare in rete, e oggi di questo abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di confrontarci con tutte le realtà che abbiamo intorno, ma soprattutto di coordinarci con loro e quindi di promuovere un'azione comune. E proprio in questo senso, nell'ambito del club dei borghi più belli d'Italia, stiamo promuovendo nella regione Lazio un'associazione dei borghi del Lazio che fanno parte del club nazionale, perché almeno riusciamo a non andare ognuno per conto suo. È necessario quindi che anche nel nostro territorio si cerchi di coordinarci sempre di più come sindaci, perché il momento è difficile, abbiamo detto, la città metropolitana è sempre più assente, quindi anche per valorizzare e promuovere il nostro territorio, che è ricco di bellezze monumentali, archeologiche, di monumenti naturali, se ci mettiamo insieme riusciamo sicuramente ad arrivare più lontano e a promuovere meglio il nostro territorio. Aggiungo anche che se questo lavoro di rete viene fatto in una prospettiva di crescita, di rilancio, anche le istituzioni che oggi sono tra virgolette latitanti per un vuoto non solo istituzionale ma anche politico di idee, diciamo così, possono essere influenzate da questo movimento così forte, che poi con la forza dei numeri, con la forza del richiamo, dell'attrattiva che possono questi piccoli borghi possono avere, queste realtà locali possono avere, possono influenzare, diciamo così, dal basso le decisioni politiche, perché era scellerata l'idea di poter cancellare con un colpo di matita la rete neurale della nostra nazione semplicemente per un'ottica di risparmio economico. È vero che la strada è ancora lunga, perché come dicevi tu, le difficoltà economiche e le difficoltà di bilancio irrigidiscono qualsiasi iniziativa, da quella culturale a quella, però è altrettanto vero che l'idea anche di tanti amministratori giovani come te può essere dirimente rispetto a un futuro che non va visto solo come qualcosa di oscuro, chiaroscuro, ma invece può essere anche fonte di prospettiva e soprattutto di rilancio delle persone che vivono, perché parliamo di persone che vivono all'interno di queste piccole comunità, ma soprattutto come la speranza di poter mantenere quei presidi che per millenni hanno rappresentato l'Italia ancora in vita. E questa responsabilità appartiene principalmente a noi che abitiamo questi luoghi e soprattutto a chi ha la guida e la responsabilità amministrativa di condurre i comuni verso questo rilancio. Infine ti chiedo, visto che stiamo quasi al termine della trasmissione, dalla tua esperienza personale e dall'impegno quotidiano come amministratore, come ti immagini lo sviluppo di questo nostro territorio? Quello che ti dicevo prima, me lo immagino come un territorio che riesca a muoversi finalmente in rete, un territorio che riesca a coordinarsi, a promuovere delle azioni comuni. Lo immagino come un territorio ricco qual è, e quindi io sono stato contento quando il mio comune è stato riconosciuto come uno dei borghi più belli d'Italia, perché è da tanti anni che si diceva Castel San Pietro è bello, Castel San Pietro è valorizzato. Poi quando arrivano questi riconoscimenti, allora è la dimostrazione che se si lavora ce la si può fare. Quindi penso che questo possa essere soltanto un esempio di quello che il nostro territorio può dare. Quindi non dobbiamo essere diciamo la ruota di scorta di Roma, ma possiamo essere, se ci coordiniamo, i veri protagonisti della Regione Lazio, i veri protagonisti diciamo di questo territorio, e anche diciamo incrementare il turismo, e quindi dietro al turismo anche le attività commerciali e tutto quello che diciamo ruota intorno. Per quanto riguarda la mia esperienza rispetto a quello che dicevi prima, assolutamente non dobbiamo essere pessimisti. Io dico sempre una cosa ai nostri ragazzi: dico che dobbiamo giocare la partita se vogliamo cambiare le cose, perché ci hanno fatto credere che è tutto brutto, ci hanno fatto credere che i nostri comuni non servivano a niente, ci hanno fatto credere che in politica sono tutti ladri. Invece io penso che se i giovani, i ragazzi, iniziano a scendere in campo anziché stare in tribuna o in panchina a giudicare e a parlare, sicuramente le cose le possiamo cambiare, perché probabilmente a molti fa comodo che questi giovani restino in panchina, e invece noi vogliamo giocare la partita. Se lo faremo, sicuramente il futuro sarà roseo. Grazie Sindaco, ci hai rappresentato, ci hai dato un ottimismo e la speranza di poter continuare nel percorso di rilancio del nostro territorio, perché è fondamentale che ci siano persone come te che ci credono e che hanno una responsabilità importante di guida e di riferimento per i cittadini della tua comunità. Io ti ringrazio per aver partecipato alla trasmissione Agora in Onda, era proprio questo che cercavamo di far capire ai nostri radioascoltatori, cioè dell'impegno, della passione, della costanza, prima ancora che dell'onestà, che d'opera come prerequisito di ogni singolo amministratore che si candida alla cioè chi vuole guidare una comunità più o meno piccola, e soprattutto l'impegno che ci metti insieme alla tua amministrazione, alla tua giunta, per portare avanti queste idee che stai affrontando nella quotidianità, e soprattutto i risultati che stai conseguendo. Ecco, posso aggiungere una cosa al volo, Marco? Sì. Brevissimo. Voglio salutare e ringraziare proprio i miei colleghi amministratori, perché i successi di un comune non sono del sindaco, ma sono di una squadra. Io ho la possibilità e la fortuna di guidare una grande squadra, quindi un abbraccio ai miei assessori e consiglieri. Allora Stefano, io prima di lasciarti la linea, visto che parliamo di comuni, volevo approfittare per segnalare che nell'edizione 2018 di Vino Intorno, che si svolgerà ad Olevano Romano, il 15 aprile, domenica 15 aprile, presso il padiglione della Regione Lazio, l'associazione Extra Wine che organizza la rassegna enogastronomica, che sta ottenendo risultati straordinari in questi anni, presenterà nel padiglione Lazio proprio la nuova edizione, e quindi invito tutti i radioascoltatori o coloro che volessero seguire la manifestazione anche sulla diretta Facebook, a seguire diciamo questa presentazione che dal locale comincia a diventare una rassegna di interesse nazionale, quindi abbiamo uno spazio all'interno del Vinitaly. Io vi saluto tutti i radioascoltatori, vi darò appuntamento alla prossima settimana, in cui parleremo di un tema altrettanto importante come quello della privacy, che stiamo seguendo in questi giorni su i maggiori media nazionali, e quindi ne parleremo in studio con un altro ospite. Io Stefano ti ringrazio della disponibilità, ringrazio tutti i radioascoltatori della Radio Libera, un buon fine settimana a tutti e ti lascio la parola.